Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nessuna paura del futuro. El Can presenta la Fiat divisa in due. Al Lingotto in corso un'assemblea storica. La ripresa stenta, dice Confindustria. Ora bisogna governare. La Chiesa non ha vigilato abbastanza. La pedofilia è uno shock. Benedetto XVI dalla Scozia fa mea culpa. I call center stiano fuori dal televoto. Bufera su Sanremo e Grande Fratello. Interviene l'antitrust. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Andiamo subito a Torino, al Lingotto, dove oggi nasce la nuova Fiat, o meglio le nuove Fiat. Paolo Piacenza. Buongiorno Anna, buongiorno anche agli ascoltatori. Qui al centro congressi del Lingotto a Torino sta proseguendo con la discussione l'assemblea straordinaria del gruppo Fiat, convocata per decidere lo scorporo delle attività macchine agricole, movimento terra e veicoli industriali nella nuova società Fiat Industrial, dando vita in questo modo anche a una nuova Fiat dedicata prevalentemente all'auto. Si tratta di un passaggio fondamentale nella strategia globale annunciata e cavalcata dall'amministratore delegato Sergio Marchionne, che passa anche attraverso il matrimonio con Chrysler. Non a caso in apertura il presidente di Fiat, John Elkann, ha parlato di assemblea storica, ma sentiamo le sue parole. L'assemblea di oggi voterà per dar vita a due Fiat, forti, con ambizioni, obiettivi e soprattutto persone che ci lavorano, che sono pronte a realizzarli. In Fiat non abbiamo paura del futuro e quello che ci interessa è proprio costruirlo. L'amministratore delegato Sergio Marchionne ha spiegato perché questo è il momento giusto per lo scorporo e ne ha illustrato le modalità. Ascoltiamo Marchionne. Continuare a tenere insieme settori che hanno caratteristiche economiche e industriali così diverse ha perso la propria ragione d'essere. Non solo è un concetto superato, adesso ha smesso di essere utile. E questo ci sembra il momento giusto per procedere alla scissione. Grazie dunque a Paolo Piacenza. Sentivamo ancora in corso l'assemblea al Lingotto, ne parleremo ancora nel corso della giornata, ma intanto che ne pensa la borsa, Deborah Rosciani? Allora, la borsa ha avuto una reazione piuttosto intensa, definiamola così, sul titolo Fiat, perché il gruppo, in attesa dell'assemblea degli azionisti, il titolo del Lingotto era partito male dopo i dati sulle immatricolazioni europee, che naturalmente hanno ancora confermato mesi pesantissimi per le vendite in tutta Europa e quindi anche per Fiat. A luglio e agosto davvero da dimenticare. Poi, dopo le prime indicazioni di Marchionne, il titolo ha avuto un ribasso piuttosto profondo di oltre 2 punti per poi recuperare ampiamente. Adesso abbiamo un meno 1 per il Lingotto a 10,44 euro, per cui diciamo che gli investitori stanno cercando di interpretare nel dettaglio tutte le indicazioni che stanno emergendo dal Lingotto. Complessivamente oggi una giornata contrastata. In Europa Milano perde mezzo punto. Anna. Grazie Deborah, e dicevi proprio tu, non sono buone le notizie che arrivano sul fronte delle vendite auto, allora sentiamo quali sono i dati. Le immatricolazioni in Europa sono calate del 12,1% in agosto, che è tradizionalmente un mese di basse vendite. Nei primi 8 mesi del 2010 la flessione globale è del 3% su 9,5 milioni di auto immatricolate. Il gruppo Fiat ha registrato un calo delle vendite nei primi 8 mesi del 13,7% e la quota di mercato è calata dall'8,9% al 7,9%. Secondo quanto sostengono a Torino in casa Fiat, il calo delle vendite del gruppo è stato causato principalmente dal tradizionale rallentamento estivo e poi dal calo delle vendite in Germania, dove il mercato in luglio è sceso del 32% e in agosto del 27%, e dove nel 2009 i modelli ecologici che usufruivano degli incentivi alla rottamazione avevano permesso a Fiat Group di ottenere risultati straordinari. Tra i modelli Fiat vanno segnalati ancora una volta i risultati ottenuti dalla Panda, che è sempre l'auto più richiesta del segmento A, e dalla 500, che è la seconda vettura più venduta in Europa nel suo segmento. In controtendenza invece in agosto il marchio Alfa Romeo, che aumenta i volumi all'1,9%, anche grazie al successo riscontrato dalla Giulietta. Giorgio Maimone da Radio Core per Radio 24, il sole 24 ore. Pessimista anche Confindustria, che ha presentato oggi i dati sull'economia italiana. La ripresa è a rilento, dicono gli industriali, e la presidente degli industriali lancia un nuovo appello alla politica, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Dopo il forte slancio iniziale, la ripresa economica è entrata in una fase di rallentamento più accentuato ed in questa situazione a penalizzare particolarmente il nostro paese è il vero e proprio boom di evasione fiscale sommerso. Di qui le pressioni del Centro Studi di Confindustria che invitano il governo a cambiare marcia, stimando per l'Italia una crescita dell'1,2% per quest'anno e dell'1,3% per il prossimo, una crescita che per l'industriale è del tutto insufficiente a recuperare i livelli di produzione pre-crisi, ma quello che più preoccupa Viale dell'Astronomia è la nuova esplosione di evasione fiscale sommerso. Solo nel 2009 si stima un mancato gettito per lo Stato pari a 125 miliardi di euro, il sommerso avrebbe oltrepassato invece il 20% del prodotto interno lordo con un peso al sud doppio che al nord. A frenare l'economia sarebbe però anche la forte pressione fiscale al 43,2% apparente, al 54% effettiva. Ma quale la ricetta per tornare a crescere e spingere? Sulle riforme, dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che invita il governo ad andare avanti nominando in tempi brevi il ministro dello sviluppo economico. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Meglietta. Da Roma andiamo a Edimburgo, dove Papa Benedetto XVI ha iniziato la sua visita in Gran Bretagna. Sono arrivate subito parole importanti. Carlo Marroni. Sì, buongiorno da Edimburgo. Il Papa questa mattina in aereo, arrivando nella capitale della Scozia, ha tornato sul tema della pedofilia, parlando appunto dello scandalo gravissimo, ha detto sui preti pedofili la Chiesa non ha vigilato abbastanza, ha parlato di uno shock terribile dentro la Chiesa, ha detto che deve essere espiata una colpa di questa che è una perversione. Il Papa ha incontrato la regina Elisabetta e le ha detto che gli inglesi si opposero al nazismo, ora non cedano al laicismo. Oggi pomeriggio la messa a Glasgow e questa sera il trasferimento a Londra. E da Edimburgo è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Carlo Marroni. E Madeleine Théane è uno dei 21 speaker che formano la squadra di voci cattoliche creata proprio in occasione del viaggio papale in Inghilterra. Le Catholic Voices hanno seguito un corso di 3 mesi per essere in grado di spiegare ai media le posizioni della Chiesa sugli argomenti più delicati del momento, dai diritti dei gay alla pedofilia. L'ha intervistata Alice Cason. Ho frequentato l'Università di Cambridge, ora lavoro come ricercatrice nel Parlamento inglese, nel tempo libero faccio la giornalista. Mi sembrava una bella sfida diventare una Catholic Voice. Credo che la Chiesa abbia un bisogno disperato di imparare a spiegare i propri insegnamenti e posizioni in Gran Bretagna. Noi non parliamo ufficialmente in nome della Chiesa, anche se la Chiesa inglese ci appoggia. Siamo solo membri della congregazione che spiegano gli insegnamenti della Chiesa. Il punto è, noi crediamo a quello che dice la Chiesa e ve lo spieghiamo, ciascuno dal punto di vista della sua personale esperienza. Questi mesi hanno rafforzato la mia fede e, ancora più importante, mi stanno insegnando a comprendere alcune posizioni della Chiesa cattolica che prima faticavo a capire. Fra le altre cose, l'impossibilità per le donne cattoliche di essere ordinate prete. Andiamo in Europa, è arrivata questa mattina dal vertice europeo di Bruxelles una decisione importante sul fronte economico. I ministri degli esteri hanno raggiunto l'accordo per l'intesa commerciale Europa-Corea del Sud. L'accordo entrerà in vigore il 1 luglio 2011 a condizione che entri in vigore la clausola di salvaguardia per l'industria europea. A pesare però sul vertice europeo in queste ore la questione Rom, con l'Italia schierata con la linea francese sulle espulsioni. Berlusconi è in ritardo perché è costretto ad un atterraggio d'emergenza a Linate senza conseguenze. Andiamo però a Bruxelles per le ultime notizie. Gerardo Pelosi. Buongiorno a voi. Il presidente del Consiglio Berlusconi è entrato pochi minuti fa al Consiglio europeo, giusto Schlitz, in ritardo come avete detto, per un piccolo problema all'aereo che lo stava portando qui. Ha detto ovviamente nessun complotto, c'era stata una forte incrinatura su un vetro e siamo stati costretti a rientrare su Linate. L'arrivo di Berlusconi era atteso anche per affrontare un problema che, pur non essendo all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, però aleggiava da alcune ore e da ieri soprattutto da alcuni giorni, e cioè la questione dei Rom. Proprio ieri Berlusconi si è schierato con il presidente francese Sarkozy su una posizione abbastanza dura nei confronti della commissaria europea agli affari interni Reding, che aveva sollecitato Parigi a dare una serie di risposte sulla posizione francese. All'ordine del giorno la task force, il rapporto della task force sulla riforma del patto di stabilità, ma nella mattina la decisione, lo sblocco del primo accordo di libero scambio dopo il Trattato di Lisbona, che riguarda la Corea del Sud, verrà firmato il 6 ottobre, è stato sbloccato dopo forti resistenze italiane che temevano ripercussioni su settori sensibili, tessile, ma soprattutto le auto di piccola cilindrata. Ebbene, le richieste italiane sono state accolte, l'accordo partirà il 1 luglio 2011, conterrà una clausola di salvaguardia sulle auto di piccola cilindrata e anche l'adozione della clausola della nazione più favorita anche all'Unione Europea, cioè se la Corea del Sud dovesse avere e firmare anche nei prossimi anni con paesi come gli Stati Uniti degli accordi commerciali più vantaggiosi, questi verrebbero applicati automaticamente anche all'Unione Europea. E da Bruxelles è tutto. E grazie a Gerardo Pelosi. Veniamo alla politica italiana. Maggioranza nella bufera, ma anche il PD rischia la spaccatura. Il PD offre l'immagine di un partito senza bussola strategica e per superare questa fase occorre uscire allo scoperto e avanzare proposte coraggiose e innovative. Questo si legge nel documento promosso da Walter Veltroni, Beppe Fioroni e Paolo Gentiloni, sui quali si stanno raccogliendo firme. Nel documento si prevede la creazione non di una corrente ma di un movimento che coinvolga forze interne ed esterne al partito, si legge. Ma sentiamo Veltroni. Io penso che la crisi del centrodestra sia la conferma del fatto che fare alleanze contro non regge. Che Fini e Bossi fossero due cose diverse, ma anche che Fini e Berlusconi fossero due cose diverse. Fini ci ha messo un po' tanto a scoprire, diciamo, che Berlusconi era quello che è. Però si sapeva, stavano insieme contro di noi. Non ha retto. Le alleanze contro, lo abbiamo visto, non reggono. O comunque non rispondono ai problemi del paese. A Roma torna a splendere dopo 4 anni di restauri la Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini. Per il ministro Bondi è stata l'occasione questa mattina anche di un annuncio, presto la riforma dei musei italiani, ma ci racconta tutto Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una giornata importante per l'arte e la cultura italiana. Palazzo Barberini risorge, torna al suo fasto originario. Si sono infatti conclusi i lavori che restituiscono al pubblico il grande spazio espositivo dell'intero pian terreno del palazzo, vecchia sede del Circolo delle Forze Armate. L'evento è stato presentato poco fa in una conferenza stampa alla presenza del ministro Bondi. Si tratta di un progetto ideato addirittura fin dal lontano 1883, ispirato alla creazione di una grande galleria nazionale di arte antica nella capitale d'Italia da poco unita, che si concretizza quest'anno in concomitanza con le celebrazioni di Roma Capitale. Come le altre capitali del mondo, dunque anche Roma avrà il suo piccolo Louvre, saranno visibili capolavori finora che giacevano in depositi, quindi sottratte al pubblico, opere d'arte dal 1200 al Rinascimento, icona, quadro, simbolo di questa galleria è la Fornarina di Raffaello, ritratto di una Venere moderna identificata nella misteriosa amante del pittore, figlia di un fornaio di Trastevere, ma ci sono anche opere del Perugino, Caravaggio, Giovanni Bellini, Francesco Lippi. Un grande restauro, ha detto il ministro della cultura Bondi, la cui carta vincente è stato l'intreccio tra il mondo delle imprese e la cultura, e il restauro è costato oltre 20 milioni di euro ed è stato in parte finanziato con i fondi dell'OTTA e in parte con quelli destinati alle celebrazioni di Roma Capitale. E per il momento da Roma è tutto, a voi la linea. Le 13, 18 minuti e 30 secondi, le notizie di oggi di GR24. Nessuna paura del futuro, così John Elkann presenta la Fiat divisa in due. Al Lingotto ancora in corso l'assemblea storica. La ripresa stenta, dice Confindustria, crescono sommerso ed evasione fiscale. Ma Marcegaglia, ora bisogna governare. La Chiesa non ha vigilato abbastanza, la pedofilia uno shock. Benedetto XVI parla così da Edimburgo, al via il viaggio del Papa in Gran Bretagna. I call center restino fuori dal televoto, bufera su Sanremo e Grande Fratello, interviene l'antitrust. Ripartiamo parlando di federalismo fiscale. È arrivato il via libera della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale al primo decreto su Roma Capitale. Per domani è atteso il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, in tempo perché il decreto possa essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei tempi previsti, vale a dire il 20 settembre, giorno delle celebrazioni dei 140 anni di Roma Capitale. Oggi alle 17 è fissato invece un incontro tra i rappresentanti degli enti locali e Tremonti. conti. Proprio sull'impatto del federalismo, uno studio della Fondazione Nord-Est evidenzia quali saranno i vantaggi della riforma, ma anche quali i rischi. Il presidente della Fondazione Nord-Est, Daniele Marini, al microfono di Anna Marino. Aiuta sicuramente a una maggiore responsabilizzazione dei soggetti pubblici nella gestione delle risorse a livello locale, cercando ovviamente, laddove già ci sono oggi situazioni virtuose nelle amministrazioni, un aumento di questa virtuosità e la possibilità di investire sul territorio in misura maggiore. Su che cosa, per esempio? Per esempio, da un lato c'è tutto il tema delle infrastrutture, che soprattutto nel nord e in alcune aree del nord, segnatamente nel nord-est, è l'aspetto maggiormente carente e richiesto soprattutto per lo sviluppo economico. E poi c'è anche tutto il tema del welfare state, del welfare locale, perché la popolazione tende ad invecchiare, in più abbiamo grosse presenze di immigrati che richiedono domande sociali nuove a cui dare risposta. Quali rischi? Il rischio maggiore, soprattutto in una prima fase, è che questo spostamento di deleghe di competenze a livello locale possa portare a un aumento anziché una diminuzione del prelievo fiscale nei confronti della popolazione, quando invece, e qui c'è un problema di consenso, il federalismo fiscale viene visto esattamente come la possibilità non solo di avere più risorse a livello locale, ma soprattutto una minore pressione fiscale. Questo vale sia per il sud sia per il nord? Sì, questo vale per tutto. E come dimostrano gli studi, inizialmente la pressione fiscale tende ad aumentare per poi andare a diminuire nel tempo. E si può cambiare questa riforma, secondo lei, per mitigare questi effetti? Bisognerebbe avere la volontà di realizzare già fin d'ora, cioè prima dell'applicazione della legge del federalismo, che comunque avverrà fra alcuni anni, dei processi di razionalizzazione delle risorse, agire sulla gestione del personale, diminuire gli sprechi e rendere maggiormente efficiente la macchina pubblica. Intanto un primo bilancio l'ha fatto la Regione Lombardia. La manovra finanziaria di luglio ha tagliato 700 milioni di euro dal bilancio, dice il governatore Roberto Formigoni. Noi abbiamo fatto una ricognizione completa nel corso di questi mesi, vedendo come si spalmano questi 700 milioni di trasferimenti in meno dallo Stato a Regione Lombardia. E abbiamo visto che le spese obbligatorie, cioè che nascono da contratti da noi già firmati negli anni scorsi, coprono quasi tutta la disponibilità. Con oggi parte quella che chiamo la fase del cantiere, la fase della costruzione. Siamo in campo per poter individuare delle nuove risorse. Con realismo possiamo oggi guardare con positività questa fase nuova che si apre, perché vogliamo garantire ai cittadini i servizi essenziali. E sembrano messi tutt'altro che bene dal punto di vista della sicurezza gli edifici scolastici. Questo almeno stando al rapporto di Cittadinanza Attiva presentato oggi. Aule malmesse con frequenti cadute di intonaco e finestre rotte, palestre malandate, bagni sporchi, certificazioni di sicurezza che molto spesso non ci sono. È un quadro preoccupante che di fatto boccia le scuole italiane, quello che emerge dal rapporto presentato oggi da Cittadinanza Attiva. Lo studio, arrivato alla sua 8ª edizione, quest'anno ha preso in esame un campione di 82 istituti in tutta Italia. Di questi solo il 16% è risultato sicuro, mentre uno su 5 è fuori legge perché non possiede la certificazione di agibilità. Solo una scuola su 5 possiede invece una certificazione igienico-sanitaria, il 93% delle aule poi non ha porte antipanico e in 3 istituti su 10 le scale di sicurezza non ci sono o sono insufficienti. Il rapporto evidenzia anche un aumento di incidenti per gli studenti nelle scuole, secondo i dati dell'INAIL. Nel 2009 le denunce sono state 93.328, oltre 1.200 in più rispetto all'anno precedente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: Conegliano, nel Trevisano, un uomo di 71 anni è stato soffocato nella propria casa. Ad avvertire la polizia sono state la moglie e la figlia, che hanno denunciato di essere state rapinate. Gli agenti non hanno però trovato segni di rapina e hanno portato le donne in commissariato, dove sono sotto interrogatorio. Bufera in arrivo per la TV, l'abbiamo anticipato nei nostri titoli. Interviene l'antitrust dopo segnalazioni di telefonate arrivate dai call center durante il televoto di Festival di Sanremo e Grande Fratello. L'antitrust chiede a Rai e Mediaset di escludere le utenze business dal meccanismo del televoto e minaccia di aprire dei provvedimenti. E questa mattina è stato presentato un programma, intanto, che è ormai un appuntamento per la TV italiana. Striscia la notizia, Alessandra Tedesco. Eh sì, ormai è veramente tutto pronto per la ripresa di uno dei programmi televisivi più seguiti. Stiamo parlando di Striscia la Notizia, il varietà satirico di nuovo in onda su Canale 5 da lunedì 20 settembre alle 20.35. La formula del programma, l'è stato confermato stamattina in conferenza stampa, una formula vincente da 22 anni, è sempre la stessa. Inchieste con inviati sul campo di vario genere. Per quest'anno ci sono molte conferme. Ritroveremo naturalmente il Gabibbo, simbolo della trasmissione. Poi Valerio Staffelli con la consegna dei tapiri, Jimmy Ghione, Max Laudadio, il duo pugliese Fabio Emingo, Capitan Ventosa e tanti altri. Confermate anche le veline. La formula, dicevamo, è sempre la stessa, insomma, così come l'idea di fondo che l'ideatore di Striscia, Antonio Ricci, vuole sottolineare. Viene definita dagli autori la teoria di Robin Hood, cioè dare voce ai deboli e martellare i potenti con commenti al vetriolo. Non hanno voluto dare alcuna anticipazione precisa sulla prima puntata, si sa solo che Staffelli consegnerà un tapiro importante e che c'è stata un'incursione di Fabio Emingo alla Fiera del Levante di Bari. Ultima nota sui conduttori, per la 17ª volta saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. A voi la linea. E grazie ad Alessandra Tedesco. Siamo alla pagina sportiva col calcio, si torna a giocare in Europa. Io faccio il mio gioco, se non ti piace non mi guardi. Però devo dirti che dovrai imparare anche l'educazione. Sì. Finisce in fuorigioco solo nel dopopartita Zlatan Ibrahimovic, quando si abbandona a un'inutile polemica TV con Arrigo Sacchi. In campo invece è lo svedese Remida che trasforma in oro, cioè in gol, le magie di Ronaldinho. E allora Zlatan torna re di San Siro, ma stavolta in maglia rossonera. Il Milan si specchia nei suoi assi, la Roma nei suoi dubbi. Finché le trincee davanti alla porta di Julio Sergio tengono, i giallorossi sperano di portare a casa dall'Allianz Arena un punticino. Poi il Bayern straripa e alla fine Totti e Van Gaal, divisi su tutto, sono d'accordo. Così, senza un tiro in porta, non si può giocare. Insomma, tenuto conto del pari dell'Inter col Twente, esordio contraddittorio delle nostre in Champions. E stasera tocca all'Europa League, doppia sfida all'olandese, Napoli-Utrecht e PSV Eindhoven-Sampdoria, poi Juventus-Lech Poznan e Sparta-Praga-Palermo. Sarà pure la coppa meno nobile, ma ci darà diagnosi e prognosi definitive sullo stato di salute del calcio nostrano. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo noi ci fermiamo qui in regia Carmelo Lauricella. Un saluto da Anna Migliorati. Vi lascio con Italia in Controluce, GR24. Come sempre torna alle 14. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.